none of mercy. None of mercy. Zicchini, sopra il beat, farmacista e cioccolato. Bomba all'impianto, il divertimento è assicurato. Muovi il culo, segui il tempo mentre prendo fiato. Lascia perdere i problemi, stai tranquillo e rilassato. Tieniti pronta all'impatto, portiamo il suono originale. Trasformiamo in un party anche la serata più banale. Sale il morale di chi si fa trasportare. Sciogliti, lasciati andare, voglio vederti saltare. Fieri di rappresentare la nostra bandiera. La locanda terra sarda e si riscalda l'atmosfera. Si entra meglio in sintonia se fuma la ciminiera. Sai che non si gioca, non si scherza, è roba seria. Suona fino a tarda sera, raga, ma fin la materia. Zicchinica la miniera per star fuori dalla media. Si cresce soltanto mettendo il culo sulla sedia. Chi ci copia ci spera, ma non potrà mai far carriera. Ehi, tu, dammi da accendere. Tre uomini, tre split, tre lettere. Ehi, tu, dammi da accendere. Se non prendo fuoco sopra il palco lascio perdere. Ehi, tu, dammi da accendere. Tre uomini, tre split, tre lettere. Ehi, tu, dammi da accendere. Se non prendo fuoco sopra il palco lascio perdere. Un cioccolato, un farmacista e la festa rinizia. Da destra a sinistra questo tempo ti ipnotizza. C'è chi lecca la sua rifla e c'è chi si alcolizza. Chi si schizza, chi si eclissa e chi cerca la rissa. Chi si sforza e pensa ma il cervello non lo strizza. E chi si ostina a confondermi con l'immondizia. N-E-B-O. L'originale è solo U-N-O. In tre ciocco farma peppi O-B-I-O. Frutti do R-O, io non copio. Ho inventato un linguaggio e resta M-I-O. E mi prende molto al cazzo che gli altri lo usino. Di chi ha R-O, guerra con T-R-O. Chi impara ascoltando rap Italia N-O. Questo ski F-O, sta andando avanti da un po'. C'è chi non ha fantasia e ricalca la copia di un flow. Aio, certe cose non si fanno punto e boh. Io lo so, ma tu no, spegni quel microfono. Penso che rimango puro se non mi contamino. Come pura la cultura per la quale milito. H-I-T, H-O, quello che rappresento. Zicchinica, terra sarda, ciocco, L-A-T-O. None of mercy. Ehi, tu, dammi da accendere. Tre uomini, tre split, tre lettere. Ehi, tu, dammi da accendere. Se non prendo fuoco sopra il palco lascio perdere. Ehi, tu, dammi da accendere. Tre uomini, tre split, tre lettere. Ehi, tu, dammi da accendere. Se non prendo fuoco sopra il palco lascio perdere. Tu, dammi da accendere. Tre uomini, tre split, tre lettere. Ehi, tu, dammi da accendere. Se non prendo fuoco sopra il palco lascio perdere. Ehi, tu, dammi da accendere. Tre uomini, tre split, tre lettere. Ehi, tu, dammi da accendere. Se non prendo fuoco sopra il palco lascio perdere. None of mercy.